L'acqua, la sanità, cose, lì. Il lavoro umano, sull'elemento. La frantoria, sulla lunghissima che sale in scala. Pesce rosso, al pes rosso.